chiacchiere distintivo, sono chiacchiere distintivo. Minuti primi 27 dicembre 2017. Quanti sette? Le frequenze, quelle di Onda Rossa, guarda caso sugli 87.9 della banda romana e laziale. Come vi ha anticipato prima Elettrodo e le sue prove tecniche di trasmissione, questa questa è l'ultima puntata per quanto riguarda questo 2017. Lo archiviamo, lo mettiamo da una parte. Pure questo qui, quello del centenario, non ci siamo riusciti manco quest'anno a fare la rivoluzione. Rimbocchiamoci le maniche per qui, perché qui ha da cambiare. Siamo passati dal turbo capitalismo al fuffa capitalismo. Però il problema è che sempre capitalismo rimane. È una delle istituzioni di questo capitalismo, purtroppo non solo del capitalismo, è il carcere. Come ogni 31 dicembre, che si rispetti, dalla mattina alle 10 si va sotto il carcere di Rebibbia, anche quest'anno, questo 31 dicembre 2017, per il presidio solidale era l'inticchiata, dicevamo un tempo, propiziatoria. Sì, perché la lenticchiata funziona così, parafrasando un vecchio detto popolare: ogni lenticchia che mangiamo, un prigioniero liberato. O anche una prigioniera, a maggior ragione si tratta di lenticchia. Quindi presidio solitale e lenticchiata. Dove? Al carcere di Rebibbia, già l'abbiamo detto, via Raffaele Maglietti, angolo via Bartolo Longo. Sì, sì, sì, trilla lo 0649 1750, mo lo diciamo nel numero della radio. Fuori e dentro le mura, dallo stesso lato della barricata, recita lo slogan conclusivo del manifesto con cui abbiamo cercato di tappezzare un po' di muri in questa città, firmato www.ondarossa.info, Radio Onda Rossa, Scarceranda. Un altro 31 dicembre, lo ricordavamo prima, forse lo ricorderemo anche dopo, vediamo se ci ricordiamo e siamo in grado di leggerlo, è quello. Quel luogo che ospita tante iniziative della radio, che è il 100 celle aperte, ancora parliamo di Liberazione. Un'altra ve la dico al volo perché ci è giunta poc'anzi e dice che che appunto, vabbè, nelle prossime settimane vediamo adesso di fissare la data come vi avevamo promesso, però vabbè, poi ne parleremo quando avremo occasione. Verrà la Furia a presentare il disco nuovo che è uscito. Nel frattempo, venerdì prossimo al 360 gradi ci sta appunto la Furia che presenta il nuovo CD, il nuovo disco. Adesso vedremo se in forma plastica o vinilica. E comunque la band militante, La Furia ha fatto uscire il disco nuovo, presto lo presenteremo, e loro lo stanno già presentando in giro. www.wonderossa.info, il sito della radio, ci trovate i podcast, ma soprattutto ci trovate la maniera per sostenere questa radio andando su Sottoscrivi. Ci sta una paginetta dove ci stanno indicate tanti modi. Uno di questi è il 6180401, conto corrente postale da intestare a cooperativa culturale laboratorio 2001, 00185, via dei Volsci 56, Roma San Lollo. ondarossa@ondarossa.info per le vostre comunicazioni alla redazione della radio. 25oclock@ondarossa.info per gli insulti al sottoscritto, per sottopormici, come vi pare, le vostre produzioni audio. E già ve l'avevo accennato, 06491750, recapito telefonico di Radio Onda Rossa dal 1977, pure quello. E noi l'altra volta abbiamo parlato di stati di allucinazione e di regressione, perciò. Roselux, Scimmia Nuda. Da Feritoie. Massa. nascondersi, stupide, sparire, la duna, impotenti, in un posto nuovo dell'arci. Ogni tanto un riassunto delle puntate precedenti, nonostante il Giovanni Lindo. Emilia Paranoica. 44 Leningrad, o forse pronunciato in tedesco, chissà. Ospiti dei 40 anni di Radio Onda Rossa alla Snia Viscosa questa estate. Questo è Seaman. Dicembre 2017, Capodanno, Low Profile, resistente e solidale. 100 celle aperte, uno spazio sociale che agisce cultura, socialità e resistenza sul quartiere e sulla città nel 1994, ma che adesso è a rischio sgombero questo 31 dicembre, e quindi per noi anche un giorno simbolico durante il quale rinnovare come prima e più di prima pratiche di convivialità, scambio, confronto, un capitano quindi nel nostro stile a basso profilo, a nostro modo e coi nostri modi. Con una cena come sempre buffet e a sottoscrizione libera, con una festa solidale nella quale rinnovare un pensiero sempre critico e sempre indipendente da istituzioni e partiti, una serata che in cui sentirci comunità e continuare a difendere tutti quei posti, quelle collettività che praticano autogestione, antifascismo, che lottino ogni giorno sui nostri territori praticando cultura, informazione, lotta e resistenza. Lo facciamo come nelle nostre corde, dando la possibilità a tutte e tutti di accedere a una cena di Capodanno vegana secondo le proprie possibilità, scambiare due chiacchiere, giocare a tombola, portare il proprio strumento e mettere su una gemma solidale. Una festa di tutti e tutte coloro che hanno attraversato e vissuto la struttura, frequentato e supportato 100 celle aperte in questi 23 anni di collettività. 100 celle aperte sempre, vi aspettiamo. Quindi alle ore 21, buffet vegan a sottoscrizione libera, a seguire gemme, canzoni, tombola dell'enticchiata. Spazio sociale 100 celle aperte, che sta in via delle Resede 5, tram 5, 19, metro C, Gardenie. Dove andare a trovare le informazioni? 100 celle aperte, 100 scritte al numero, .wordpress.com. E da 44 Leningrad il passo è breve verso Gogol Bordello. Questa è Letter to the Castro. Costume for Tonight, Gogol Bordello. Подумал, нахрен не андерграунд, я ж, бля, дурак. тоже капусты, купонов и воздух. Вся в инструменте вверх и только бак. Он тоже там шанс, типа что-то там крутит. Я послушал, говорю, чувак, ты насрал. В ответ он чисто кинул музыкалку в машину, прихватил малую и на мешку упал. And a dish, there's always some postmodernist to ask you, bitch. Capo. Banda Baciocchi. Un super super super classico. Bombarolo. Capo! Si parte e si torna insieme. Prima avvennero lo stupro e le violenze, poi l'ignobile processo e la denuncia a quante avevano sostenuto la donna sopravvissuta. Insieme siamo stati all'Aquila al processo contro gli stupratori di Rosa. Insieme il 22 gennaio ritorneremo all'Aquila nel processo che coinvolge tre di noi per diffamazione. Vogliamo che sia l'occasione per evidenziare cosa sono i processi per stupro, la responsabilità politica e individuale di chi partecipa al teatro della giustizia e di chi colpisce le reti di solidarietà femminista. Questi capoversi dell'assemblea romana ci riguarda tutte. HTTPS ci riguarda tutte, noblogs.org. Per dire che lunedì 22 gennaio alle 9 tutte le compagne staranno al tribunale dell'Aquila. E per finanziare appunto questa iniziativa, quindi per raggiungere l'Aquila, domenica 7 gennaio 2018 alle 13 pranzo vegan, benefit spese legali a l'una e le altre, largo Nicolò Cannella 17. Zanzara Khmer su Torino. Zanzara Khmer su Milano. Zanzara Khmer su Firenze. Le zanzare sono tante, le zanzare sono amore, le zanzare in amore. Le zanzare di Pol Pot. 13 gennaio 2018, ore 21, teatro e musica per Roar. Nuovo Cinema Palazzo, Piazza dei Sanniti, 9A. Fischia il vento e furia la bufera, scarpe rotte, pur bisogna... Teatro e musica, Max, 10 minuti a testa con... Giovanni Bartolo Botta, Circo Mare Teatro, Alessandro Corazzi e Riga Muraca. Ciro Carlo Fico, Valerio Gatto Bonanni, Donatella May, Daniele Monachella, Paolo Pesce Nanna, Simona Nebbia, Edu Nofri, Marco Palladini, Blas Roca, Rei, Paola Tarantino, Teatro dell'Assedio, Enea Tomei, Ariele Vincenti, più Emilio Stella. Quindi tutti questi artisti che danno il loro contributo alla radio sabato 13 gennaio alle ore 21 in quel nuovo Cinema Palazzo, qua a due passi dal 56 di Via dei Volsci, nel quarantennale di Radio Onda Rossa, 87,9 delle modulazioni di frequenza, dal 24 maggio 1977. Tutte queste informazioni le trovate sul sito della radio e in giro per il web. Libera da padroni e padrini politici ed economici, ingresso a sottoscrizione. Quindi sabato 13 gennaio tutti e tutte a sottoscrivere per la radio. Спасибо. Уничтожить. Разбойничать. Борьба вынесет за сад. 21 minuti primi, questo è Radio Onda Rossa, questa è 25 o'clock. E abbiamo ascoltato in rapida successione Zanzara Khmer, Danilo Fatur, P38 Punk, Fischia il vento. E poi Lu Quinz, L'Opal, dal disco che alla radio coprodusse

enorme e nero, di un nero mai visto. Le sue coordinate? 77904. Più o meno dove abbiamo individuato l'asteroide. Michael, i dati dai sensori di bordo. Comandante, i sensori sono tutti fermi sullo zero. Dall'astro non torna nessun segnale. Anche qui nessun segnale. Ehi, laggiù, avete idea di che roba sia? Ultima equazione del professor Bergman, errata. Il valore del coseno adiacente ai due angoli opposti è... Sei peggio di un professore che avevo. Comincio a muovermi? L'effetto antigravità. Quanta potenza assorbe? Per il momento lo tengo a mezza forza. Resti dove è, provi come reagisce il laser. Sì, signore. Beh, hai ingoiato anche il raggio del laser. E adesso? Ma il video fa neve. Il difetto è suo o nostro? Resta solo una cosa da fare, comandante, avvicinarmi all'astro. No, Michael. Comandante, l'unico pericolo è la gravità. Con i generatori al massimo posso vincerla, perciò qual è il problema? La Luna sta andando dritta addosso a quell'astro e dobbiamo scoprire che cos'è. Avanti, sbrigati. Ipotesi comprovata. Ecco. È tuo dovere riferire il pericolo. Sì, sì, ci avevo già pensato da solo. Alfa. Porto al massimo l'effetto antigravitazionale. Sandra. Che c'è, Mike? Non andartene, torno su. Bene, ti aspetto. È l'effetto antigravità. La lancetta è sul rosso. Sì, anche qui. Ciao! Sospenda, Ryan! Sospenda! Rientri! Torni indietro, inverta l'assetto! Simon! Telecomandi, è in accelerazione. Sono al massimo! Telecomandi, è in accelerazione. Sono al massimo! Telecomandi, è in accelerazione. Siamo stati sicuri quando per Michael era troppo tardi. C'è modo di sfuggirlo. La sua spinta gravitazionale può diventare così forte da rendere una pietra lunare più pesante di tutta altra, ma non è tutto. La forza di gravità continua ad aumentare e niente, né le radiazioni, né il calore e neanche la luce possono sfuggire. È una forza incalcolabile, perfino il computer non ci è riuscito. Professore, però lei non mi ha risposto. Possiamo evitare questo sole nero? Credevo di averle risposto. Possiamo evitare questo sole nero? Credevo di averle risposto. Questo sole nero? Credevo di averle risposto. Evitare questo sole nero? Credevo di averle risposto. Possiamo evitare questo sole nero? Credevo di averle risposto. Sole nero? La risposta è no, però potremmo riuscire a sfruttarla a nostro vantaggio. Victor. Come sapete, queste 8 torri antigravità servono a stabilizzare la gravità qui all'interno della base Alfa. Noi tenteremo di usarle per creare un campo di forze completamente diverso, collegando ed incrociando l'effetto antigravità di ogni torre con le altre. Il campo di forze dovrebbe risultare così. Ricorreremo anche ai generatori delle astronavi. Serviranno a rinforzare quelli principali. Ma con un campo di forze così dovremmo mettere fuori uso il computer. Meglio lui che noi. Programmeremo i generatori del sistema antigravità in modo che anziché neutralizzare la forza del sole nero, la invertiranno. Più ci avviciniamo all'astro, più il campo di forze aumenta, così che, almeno in teoria, la pressione del campo di forze a un certo punto costringerà la pressione del sole nero a farci da protezione contro se stessa. È un tentativo, ma non ci resta altro da fare. È geniale. È pazzesco. È pazzesco. È pazzesco. È pazzesco. Victor, non siamo imprudenti. È il solo modo di vedere se avevo ragione. Vogliamo andare? Eccomi. Al massimo, Paul. Bene, metto al massimo. Sembra una bilancia da pesca. Speriamo che i pesci non passino. Paul, i livelli. Il campo è al massimo. È fermo e stabile. Tutta la base vi sta seguendo. Ed è con voi. Buona fortuna. Carter, noi siamo pronti. Comandante, se vuole è ancora in tempo a cambiare idea. Beh, se avessimo scelta la cambieremmo. Coraggio, Alan. Scenda più lentamente che può. Tenetevi forte il cappello. Rischiare a quel modo tutti e due. Il rischio era relativo. Il computer aveva detto sì al 98%. E l'altro 2%? Saremmo sicuramente morti un giorno prima di tutti gli altri. Helen, è utile al morale, ma non prova niente. Le forze create da un sole nero sono inconcepibili, non hanno limiti. Dominano lo spazio e il tempo, ne invertono i valori. Che funzione ha quel campo di forze? La stessa funzione che hai tu quando non smetti di curare un malato finché non è morto. Scusate, ho da fare. Assorbe già il nostro calore. Victor sembra convinto che potremmo sopravvivere. Nessuno può saperlo di che cosa sia convinto. E tu? Qualcuno potrà salvarsi. Quelli che tra 24 ore avranno lasciato la vita con un'astronave di salvataggio. Io ne ho lasciato una intatta. Calcoli programmati riguardanti le prove del campo di forze sono stati registrati ed eseguiti. Riprogrammare altri calcoli è in contrasto con gli ordini precedenti. Beh, dovevi dirlo prima. La colpa è tua. Dovevi saperlo che assorbiva più energia. Mi scusi, caro. Ma vedo che il suo amico ha difficoltà a fornirci calore. Il computer funziona bene, professore. Smetterà di funzionare del tutto tra non molto, ma lei lo sa già, immagino. Il fatto è che abbiamo portato al minimo l'energia per il riscaldamento durante le prove del campo di forza. Tutti i servizi sono stati messi al minimo durante le prove. La luce è tornata normale quando l'esperimento è finito. Anche il riscaldamento è automatico, lo so perfino io. La ragione per cui la temperatura diminuisce è che il sole nero attira la nostra energia. Ma abbiamo molta energia. Ma tra poco non ne avremo più. Ci penserà il sole nero. Perciò dobbiamo spegnere tutto, a vantaggio del campo di forze. Solo 6 ore. Ma non erano 12. 6. Kano dice che è assolutamente impossibile stabilire il totale della massa lunare attratta dal sole nero. La sua forza di gravità aumenta ogni minuto e ci attrae più rapidamente di quanto calcolavamo. Neanche il tempo di preparare l'astronave. Queste cifre possono aiutarci, forse. Attivando il campo di forze è possibile rallentare la corsa e guadagnare tempo. No, voglio conservare energia per l'ultimo momento. Deve scegliere tra Alfa e l'astronave di salvataggio. Victor, hai i risultati dell'esperimento? Non ho ancora finito, ma per ora va bene. Che succede? Voglio attivare ancora il campo di forza. Quando? Subito. Te lo sconsiglio. Non possiamo aspettare. Va alla centrale antigravità e tieni d'occhio la situazione. Minuti all'inizio del conteggio. I rapporti da tutte le sezioni e servizi. Sandra, riguardo a Michael. La prego, comandante. Non deve dirmi niente. Dica a Bergman di venire per la prova. Mancano meno di 4 ore all'impatto col sole nero. Comandante. Alfa non sopravviverà senza il computer. A tutto il personale. Prova del campo di forze. 30 secondi. Paul, e se non funzionasse? Non avremmo più preoccupazioni. John, devo parlarti. Riguardo l'esperimento? Beh, non proprio. Allora aspetta. Cano, ridurre i servizi al minimo. Computer ridotto ad attività minima. Ora dovremo sbrigarcela da soli. 10 secondi. Metto al massimo. Dia tutta l'energia. 5 secondi. 4, 3, 2, 1, 0. 5 secondi. 4, 3, 2, 1. 5 secondi. 4, 3, 2, 1, 0. Comandante, il computer deve rimanere al minimo dell'attività. Comandante, devo parlarle. Cos'è questa storia dell'astronave? C'è qualcuno che si mette in salvo? Qualcuno? Sì. Tu lo sapevi? E tu, Sandra? Non potevo crederci. Aquila 5 è quasi pronta a partire. Io non ero stato informato. Né io né altri. Non posso parlare per tutti, ma a me interessa sapere anche in che modo morirò. Avevo accettato l'idea di morire qui con tutti gli altri, ma adesso che 6 o 7 di noi si salveranno con l'astronave... 6? Beh, uno di quei 6 dovrei essere io. Perché se c'è da arrivare in qualche posto, io so farlo. Attenzione a tutte le sezioni di Alfa. Parla il comandante John Koenig. Sopra di noi c'è in funzione il campo di forze, ma davanti a noi c'è il sole nero. La realtà vera a cui ci troviamo di fronte è che il campo di forze rappresenta soltanto una tenue speranza che Alfa possa sopravvivere oltre le prossime ore. Qualcuno di noi comunque potrà sottrarsi alla catastrofe. Ho tenuto di riserva un'aquila per il salvataggio. provviste sufficienti per la vita di 6 persone, 3 uomini e 3 donne. Forse il tentativo è destinato a fallire. Ma io penso che debba essere compiuto. Il decollo è fissato per le 8.0 tra 43 minuti. Ho dato ordine al computer principale di selezionare le persone più adatte, sotto ogni aspetto, ad aiutare la sopravvivenza dell'uomo nello spazio. Le persone sono queste. Uomini. Astronauta Alan Carter. Navigatore George Asmund. Radio telecomunicazioni Toshiro Fugita. Le donne. Dottore Ellen Russell. Analizzatrice di dati Sandra Benesch. Professore Angela Robbins. La lista è definitiva. Le provviste imbarcate sono sufficienti per 5 settimane. Se esiste una soluzione positiva, la troverete insieme. Se non esiste... Ecco, signori, è tutto. Il decollo è tra 20 minuti. Comandante. Lasciamo perdere. Sì, sì. Per aria per cercare la cifra completa. I decimali arrivavano all'infinito. Se stai cercando di sollevarmi il morale, perdi tempo. In ogni caso, i miei calcoli dimostrano che dovremmo già essere tutti morti. E precisamente da quando il deposito... Ma che diavolo stai facendo? Lo sai che non puoi fumare, no? Oh, non credo che Ellen si arrabbierebbe. thing that I sent you. And now there's no escape. I can almost taste your dandruff as I reach out for your face. And I strike. Stai alludendo per te a Dio? Non lo so esattamente. Io, vedi, io sono uno scienziato, non mi intendo molto di religione o altro. No, sono le leggi del cosmo, quelle a cui mi riferisco. Che intervengono al momento giusto. Le a cui mi riferisco. Le leggi del cosmo, quelle a cui mi riferisco. Del cosmo, quelle a cui mi riferisco. Che intervengono al momento giusto. Potrebbe essere una risposta. In sostanza io penso che noi crediamo ciò in cui vogliamo. Forse la realtà consiste in questo. Forse la realtà consiste in questo. Io so una cosa, so io penso che noi crediamo ciò in cui vogliamo credere. Forse la realtà consiste in questo. Io so una cosa, che il confine tra la scienza e il misticismo è molto tenue. Qualche volta, sai, mi sento molto vecchio. Il computer principale si è disattivato da solo. Il 100% dell'energia è assorbito dai generatori antigravità. Il campo di forza è al massimo. Grazie. Lei non può fare più di questo. Vada pure. Bene, signore. Io non credevo che finisse così. È un cognac che ha 60 anni. Lo tengo da parte da quando sono. Aspettavo solo un avvenimento da festeggiare. Beh, qualcuno penserà che non c'è niente da festeggiare. Ma per me sì. Se mai c'è stata un'occasione, è questa. Ma tutto quello che poteva essere. A tutto quello che è stato. Solo che sia interessante. sento più niente. E anche... è possibile che non esistiamo più. Possibile che non esistiamo più. È possibile che non esistiamo più. Io esisto. Io esisto. Io esisto. Io esisto. Io esisto. Io esisto. Io esisto. Sentire i tuoi pensieri. Anch'io. È meraviglioso. Io. È meraviglioso. Ora capisco la teoria del tuo campo magnetico. È così semplice. Teoria del tuo campo magnetico. È così semplice. Infatti si ricollega alla mia teoria dei campi unificati. Ah sì? È vero. Ora lo vedo. Questo ho detto che è meraviglioso. Se ogni cosa è una cosa diversa, l'intero universo è il pensiero che vive. È vero. Chi sei tu? Un amico. Chi sei tu? Un'amica. Chi sei tu? Un'amica. Chi sei tu? Un'amica. Venite con me. Ogni stella non è che una cellula nel cervello dell'universo. È uno dei modi di concepire l'universo. Nel cervello dell'universo. Ella non è che una cellula. Nel cervello dell'universo. Ella non è che una cellula. Nel cervello dell'universo. Ella non è che una cellula. Nel cervello dell'universo. è uno dei modi di concepire l'universo. Perché finora non ero mai riuscito a parlarti? A causa del tempo. Quello che voi chiamate la velocità della luce. Qui nell'eternità la fretta non esiste. Forse un mio pensiero dura migliaia di vostri anni. Forse un mio pensiero dura migliaia di vostri anni. Forse un mio pensiero dura migliaia di vostri anni. Ma voi non siete mai qui per ascoltarmi. Tu forse sei Dio. Ora vi devo lasciare. Aspetta. Essere dall'altra parte dell'universo. La tua sembra quasi di essere dall'altra parte dell'universo. Sembra quasi di essere dall'altra parte dell'universo. La tua idea ci ha salvato. Mi chiedo come. Grazie. Dall'astronave nessun segnale, nonostante le tue teorie sul tempismo delle leggi del cosmo. Ma non potevano cavarsela. Tu credi? Stanno tornando. Sì, gli altri sono di là. Non ne ho idea. Non c'è altra spiegazione. È una cosa incompresa. Perché ci avete seguito dentro il sole nero? Ma andavamo in direzione opposta. No, no, ammetta che ci ha seguito. Ma non è vero. Ci siamo passati dentro. È una cosa fantastica. Ma se non ci avete seguito, come avete fatto a ritrovarci? Un milione di anni luce. Passando per tutto l'universo. Io sono un astronauta, professore, non un filosofo. Io sono un astronauta, professore, non un filosofo. un milione di anni luce. Passando per tutto l'universo. Passando per tutto l'universo. Di anni luce. Passando per tutto l'universo. Milione di anni luce. Passando per tutto l'universo. Luce. Passando per tutto l'universo. Passando per tutto l'universo. Passando per tutto l'universo. Passando per tutto l'universo. 34 minuti da dopo la mezzanotte si ritorna in onda. In voce. Quando il calendario sopra il PC della regia segna 28 dicembre. Quindi con la puntata di Spazio 1999 Sole Nero in cui abbiamo trasmesso Fat Freddy Drop Bonon Ba non esce Boanon, poi Pink Floyd Set the Controls for the Earth of the Sun, Oakwind Orgon Accumulator, Dead Kennedys The Prey, Ray Daytona e Go Go Bombs, Detecto, UFO Mammut, Ammonia, Calibro 35, Universe of Ten Dimension e infine Nam ancora sotto la nostra voce con Sentry of Sky. Odio il carcere 2018, lo ricordiamo in finale di Delirio. Appuntamento dalla mattina all'angolo tra via Maglietti e via Longo, fuori le Bibbie. Andiamo in corteo fino al Pratone, di fronte al femminile. Creiamo comunicazione con chi è dentro quelle fottute mura. Al presidio ci sarà l'inticchiata propiziatoria, oltre alla distribuzione di scarceranda e materiali informativi. Di 31 dicembre dalle 10, presidio solidale, dai! Programmazione in diretta di Radio Onda Rossa finisce qui, vi lasciamo in compagnia della compagna automatica Ario e le sue repliche. Si riprende alle 8 di domani mattina con la lettura delle prime pagine, la rassegna stampa cittadini redazionali, fino al GR dell'ora di pranzo alle 13.30 lo spazio comunicazione e quindi Visionario, la trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa. Tracce di cinema che è in palinsesto, riprenderà a gennaio. Alle 16 Attica Blues oltre la Black Music, alle 17 La Schiena del Sole, alle 18 fino alle 20 Mezzedes, i redazionali della radio, alle 20 Spazio Comunicazione, martedì autogestita da femministe e lesbiche, alle 23 Apostasia a chiudere. Noi salutiamo tutti e tutte coloro che sono recluse e reclusi dentro, dicevamo prima, quelle fottute mura. E per una volta, invece di dare semplicemente un saluto radiofonico, ci diamo invece un appuntamento, appunto, per appuntamento appunto. Salutare tutti e tutte fuori e dentro le mura. Noi la chiudiamo qui e ci sentiamo quindi mercoledì prossimo, ormai 2018. Bella a tutti e a tutte, ci risentiamo, dai. Communist moon.